effetto. Qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dei potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora, ciao, come sempre ben trovati e ben trovate a tutti i nostri amici, amiche, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat, che si trovano per l'appunto all'interno di Radio Wombat nello spazio della stampa rassegnata, sperando anche di avervi incontrato sulle onde medie alla frequenza dell'1359, che è la frequenza in onde medie alla quale ha ricominciato a ruggire il nostro animale Wombat. Quindi se ci state ascoltando in onde medie, è ancora di più un piacere salutarvi e accogliervi in questo spazio della stampa rassegnata. Per chi già ci conosce, ma anche per chi non ci conosce, brevemente due note su quello che è il nostro lavoro di stampa rassegnata, cioè il tentativo di sviluppare ragionamenti e critica, speriamo radicale, dell'esistente intorno e a partire da quelli che sono i commenti giornalistici ai fatti e agli avvenimenti che avvengono nell'area metropolitana fiorentina, con particolare riferimento da sempre, da quando abbiamo cominciato, cioè dalla fine del 2017, alle due vertenze popolari che animano la nostra area metropolitana, che sono quella contro l'inceneritore di Case Passerini e più in generale le battaglie per le alternative e dentro e contro il ciclo dei rifiuti, e la battaglia per e contro, da una parte per la riduzione progressiva dismissione dell'aeroporto di Peretola, che si innesta alla battaglia più generale contro la costruzione del nuovo aeroporto di Firenze. In questo quadro la nostra attenzione è, come sapete, non essenzialmente ma principalmente rivolta a queste tematiche, seppur tentiamo di spaziare e di soffermarci su tutto quello che ci sembra interessante rilevare. Scusate la confusione, insomma, che è il bello della diretta. Stavo per dire, vorrei cominciare la nostra trasmissione di oggi dando per l'appunto spazio a una cosa seria, che è una richiesta, un appello, un invito ed una manifestazione che avrà luogo martedì 25 di settembre, cioè il prossimo che viene, e quindi quello che sto per dire è utile, diciamo, a fini della mobilitazione solo per chi ci ascolta nella diretta del lunedì alle 15.30, perché per chi invece ci dovesse ascoltare o il mercoledì alle 23.59 o il giovedì alle 8.30 oppure nel podcast, probabilmente saremo fuori tempo, ma non è fuori tempo spiegare il perché per come di quello che sto per dire. Quindi martedì 25 di settembre cosa succede? Succede che ci sarà un presidio sotto e di fronte e probabilmente in qualche modo anche una presenza critica e di mobilitazione all'interno del Palazzo della Regione, perché si discutono delle mozioni relative e contrarie alla possibilità che venga riaperto l'inceneritore di Scarlino e quindi riacceso il forno. È una battaglia rispetto alla quale, come movimento contro l'inceneritore di Firenze e più in generale come movimenti per le alternative sul ciclo dei rifiuti, abbiamo il dovere di affiancare questa richiesta e questo appello che ci arriva dai cittadini e dagli abitanti di Scarlino. Quello di Scarlino è un inceneritore che è stato chiuso dopo anni di attività, tra l'altro, appunto, come spesso avviene, insomma, anche con evidenze degli inquinanti sparsi e sparpagliati tristemente e tragicamente sul territorio, e ad oggi rischia seriamente di essere riaperto dentro la cornice più generale di un piano dei rifiuti che ancora stenta a essere stilato e che, nonostante le promesse e le dichiarazioni che abbiamo visto susseguirsi perlomeno da questa fine primavera e inizio estate, vi ricorderete insomma le dichiarazioni che hanno in qualche modo anche agitato l'interno del Partito Democratico, che da sempre aveva sostenuto la necessità di, da una parte, dell'incenerimento come naturale, secondo loro, conclusione del ciclo dei rifiuti, dall'altra anche la necessità di questo mega inceneritore da 198.000 tonnellate che era proposto per la piana fiorentina, cioè quello di Case Passerini, contro cui tanto ci siamo battuti e di cui sempre parliamo. Le dichiarazioni che si sono susseguite tra la primavera e l'estate facevano, tra virgolette, ben sperare, proprio perché anche all'interno del PD si erano aperti degli spazi di revisione, spazi che ovviamente non abbiamo colto ingenuamente con dei festeggiamenti, ma che in modo guardingo e sospettoso rispetto a quello che è il procedere e l'incedere della politica istituzionale, però abbiamo comunque non potuto notare con un certo favore. Si sono aperti questi spazi di revisione critica, sono state presentate delle mozioni, ripeto, anche all'interno dello stesso Partito Democratico, sull'economia circolare, anche se anche rispetto a questa questione della circolarità c'è molta confusione, e comunque insomma questa roba si è sentita soprattutto al di là del Partito Democratico da parte del presidente della regione Enrico Rossi, che non solo ha messo in discussione l'idea dell'inceneritore di Case Passerini, ma ha cominciato a dire che i comitati e nello specifico le mamme, no, inceneritore, hanno avuto ed hanno ragione. Ragion per cui, ovviamente, essendo questo il quadro in cui ci si sta muovendo, se, come stiamo dicendo, le mamme e quindi noi tutti abbiamo ragione su Firenze, abbiamo ragione su tutti gli inceneritori del nostro territorio e molto più in generale d'Italia e del mondo. Cioè l'incenerimento è una pratica che va seriamente messa in discussione e quindi progressivamente messa al bando, e dobbiamo partire proprio da qui. Quindi martedì 25 di settembre rispondiamo all'appello dei cittadini e degli abitanti di Follonica, andiamo a sostenerli in questo presidio che ci sarà dalle ore 15 alle ore 20 in via Cavour, e sperando che appunto che anche chi ci sente dai nostri microfoni possa portare una presenza solidale a questi abitanti che in un giorno infrasettimanale partiranno, per quello che gli è possibile, da Follonica per sostenere queste mozioni contro l'ipotesi di riapertura dell'inceneritore. Per diciamo la cosa, chiaramente la battaglia contro l'inceneritore anche sul nostro territorio è tutt'altro che vinta, lo abbiamo detto tante volte e siamo diciamo costretti purtroppo a ripeterci, perché fino a che il ciclo dei rifiuti non viene affrontato nella sua complessità, la sentenza del TAR che ha prima sospeso le procedure autorizzative e poi la sentenza definitiva del Consiglio di Stato che ha confermato quella sentenza del TAR, e quindi il fatto che ad oggi da un punto di vista legale abbiamo vinto una battaglia molto importante e non scontata, ma comunque è solo una battaglia, non ci permette di dire che la guerra contro gli inceneritoristi sia del tutto terminata. E quindi fino a che non ci saranno delle alternative concrete e realizzabili, la battaglia insomma continua ad andare avanti, e questa dialettica conflittuale anche da un punto di vista comunicativo si svolge e continua ad avere luogo. Lo vediamo continuamente nelle nostre cronache giornalistiche, e con questo andiamo per l'appunto a guardare un po' quello che ci sta intorno. E diciamo questo periodo, nonostante non si siano mai fatti mancare niente, perché è ciclicamente sui giornali la questione dei rifiuti e quindi delle soprattutto da un punto di vista, come sempre abbiamo detto, del decoro e del degrado che i rifiuti produrrebbero. Nell'ultimo, diciamo, nel mese di settembre è cominciata questa diciamo campagna comunicativa che soprattutto vede protagonista La Nazione, ma non da poco anche il contributo del Corriere Fiorentino, sulla vicenda della raccolta differenziata e diciamo porta a porta tra virgolette che viene realizzata nel centro storico di Firenze per quanto riguarda la carta ed il cartone. ci sono continuamente foto, diciamo, tra virgolette, di denuncia, che denunciano l'inefficienza. Onestamente, quello che è più evidente è, diciamo, l'inefficienza dell'azienda Alia che si occupa della raccolta, e quindi c'è un rimpallo di responsabilità sui giornali abbastanza grosso ed evidente. Per esempio, non lo so, è stata molto indicativo, ce l'ho davanti, la Nazione del 20 di settembre, che proprio nella prima pagina della cronaca locale riporta la foto di un motorino che è per la metà ricoperto da cartoni, nel senso non che i cartoni sono buttati sul motorino, ma che il motorino si vede dietro, ma che l'altezza dei cartoni accumulati e accatastati sul marciapiede arriva, diciamo, fino alla sella del motorino. Una foto abbastanza indicativa della, diciamo, quantomeno del ritardo e dell'ingombro che questa raccolta sta creando nel centro storico di Firenze. Quello che è più inquietante dietro a queste foto scandalistiche di denuncia non è tanto il fatto che si dica che potrebbe essere fatto meglio e che si spinga per farlo, cosa che direi abbastanza banale. Si potrebbe dire che i mezzi sono insufficienti, che se i lavoratori sono insufficienti li assumessero di più, aumentassero il numero di ritiri dei cartoni quotidiani e risolvessero il problema dei cartoni che ingombrano i marciapiedi. Per quanto ci sentiamo abbastanza distanti da tutte le campagne allarmistiche intorno al decoro e al degrado delle nostre città, soprattutto dei nostri centri storici, dobbiamo ammettere che quando i rifiuti sono prodotti in grande quantità, il fatto che si accumulino e che permangano per un tot di tempo sulla strada non è insomma, non è auspicabile, e quindi basterebbe probabilmente aumentare il numero di passaggi e di ritiri, facendo in questo opera altrettanto importante e buona, che sarebbe quella di aumentare il numero di occupati con la, come sempre diciamo, dando più fiato e più respiro alla filiera della raccolta differenziata. Invece si continua in questa maniera abbastanza miope e ipocrita, e ovviamente il corollario di questo tipo di informazione e di questo tipo di denuncia qual è? È quello di mettere in discussione non tanto il come si esegue, ma l'idea stessa della raccolta differenziata, anche se in questo caso si sta parlando solo ed esclusivamente della carta e del cartone, e quasi per la maggior parte prodotto dai negozi che, insomma, popolano il centro storico fiorentino. Però, insomma, l'articolo dice questo, e appunto la foto molto indicativa dice: ora basta, scatoloni nelle strade del centro, a un mese dalla nostra inchiesta non è ancora cambiato nulla, e comune, Alia e categorie si rimpallano la responsabilità. Questo è l'articolo della Nazione. Firenze in scatola è la pagina immediatamente successiva, e insomma, era meglio quando c'erano i cassonetti. Lo stesso lo fa il Corriere Fiorentino, che lo possiamo appunto andare a guardare in un articolo precedente a quello della Nazione. L'assedio, tra parentesi, porta a porta degli scatoloni, in centro la raccolta che scontenta tutti. Alia, troppa maleducazione, residenti e commercianti, erano meglio i cassonetti. Ecco qui quello che appunto dicevo, come dietro la denuncia di quello che sta avvenendo c'è purtroppo sempre l'idea che è impossibile farla bene, e quindi tanto vale il cassonetto, tanto vale l'indifferenziato, e che in fin dei conti tanto vale poi la discarica o l'inceneritore. Questo è invece un terreno sul quale non possiamo assolutamente cedere. Dobbiamo sempre ricordarci che la raccolta differenziata è assolutamente possibile, lo dimostrano delle esperienze virtuose in giro per l'Italia, a partire da una molto interessante che è stata con la quale c'è anche un canale privilegiato e diretto attraverso la rete Rifiuti Zero, che è il consorzio Contarina di Treviso, ma insomma è una delle tante, quella che sicuramente spicca di più, ma le possibilità ci sono e ci sarebbero. Bisogna cominciare a lavorare bene, anche a partire dalla coscienza e da un lavoro capillare sugli abitanti, che però non può fare a meno del contributo delle aziende e delle amministrazioni, cosa che appunto sui nostri territori purtroppo non solo non vediamo, ma tendiamo a credere che ci sia un tentativo preordinato di boicottare

dalla Corriere Fiorentino del 13 settembre 2018, notizia che è stata riportata da tutti i giornali e che diamo con un misto di felicità in qualche modo e di amarezza, che è la vicenda dell'ex Seves, la vecchia fabbrica che si trova in via Reginaldo Giuliani, complesso insomma storico, che ha avuto anche una vicenda di dismissione comunque complessa, nella quale le amministrazioni avevano fatto molte promesse, poi in realtà le promesse sono state mantenute fino a un certo punto. Insomma, questo impianto, questo stabilimento produttivo che faceva vetrocemento, è stato piano piano messo in smobilitazione fino alla definitiva e totale dismissione. Le paure nel quartiere ci sono state e sono state insomma più che giustificate, anche perché tutta la metratura quadrata della ex Seves si trova accanto a un'altra immensa metratura quadrata di dismissione industriale, che è l'area della ex Cerdec. Queste due aree affiancate una all'altra, il dubbio e la paura molto forte degli abitanti, di tutti coloro che guardano la città come a uno spazio di trasformazione e a un'occasione per la spazializzazione dei bisogni degli abitanti piuttosto che di quelli delle grandi imprese e dei potentati economici, era che diventassero un immenso complesso residenziale, in qualche modo un'operazione anche studiata all'interno della classica, ormai possiamo dire classica, retorica del green e dell'esclusività a ridosso delle colline e della Firenze, delle ville Medice, insomma Medice e non, perché sono due complessi, quello dell'ex Cerdec e dell'ex Seves, che si trovano comunque tra la villa La Quiete, tra la villa Corsini, sotto la villa della Petraia e accanto alla villa Reale o anche villa di Castello. Che è successo? In realtà, proprio la notizia che stiamo dando è che l'ex Seves rinacque grazie al lusso, cioè la Leo France, che produce accessori per le grandi griff, acquista lo stabilimento vuoto da 4 anni. Questo insomma lo sto leggendo da titolo e sottotitolo. C'è una grande foto, significativa direi, perché Nardella abbraccia la famiglia Pinzauti, madre, padre e figlio e figlia, che dirigono questa azienda che appunto lavora in appalto per le grandi griff, facendo oggettistica, fibbie, rifiniture. Insomma, hanno comprato la ex Seves e quindi rimarrà uno stabilimento produttivo, e da questo punto di vista è in qualche modo scongiurato il rischio che si faccia all'interno di quest'area che si realizzi quello di cui ho detto era la paura del quartiere e degli osservatori rispetto alle problematiche urbanistiche, cioè un doppio incasso da parte della proprietà, che da una parte ha portato fuori dall'Italia la produzione di vetrocemento e dall'altro avrebbe liberato questa grossa area produttiva che, con un cambio di destinazione d'uso molto semplice e molto facile, poteva diventare area residenziale e quindi fortemente appetibile. L'amministrazione comunale fiorentina si era impegnata a non concedere il cambio di destinazione d'uso. Noi non sappiamo se effettivamente lo avrebbe mai dato di fronte a una offerta o una pro-offerta per l'acquisto. Ciò che però sappiamo è che Nardella comunque si è potuto incassare questo risultato e ovviamente non ci ha pensato due volte a dirlo, perché appunto era una tra le dichiarazioni dell'articolo, che ora non vi sto a leggere perché sarebbe eccessivamente lungo. Nardella non solo si complimenta con la famiglia Pinzauti che si compra la Seves, ma anche per aver con questa occasione aver potuto mantenere quella che era la parola data, cioè il fatto che non è stata data nessun cambio di destinazione d'uso e che la Seves rimane uno stabilimento produttivo. Quindi questo in qualche modo è quella parte della notizia che ce l'ha fatta commentare anche positivamente, cioè non ci sarà una speculazione edilizia, rimarrà uno stabilimento produttivo. Rimane uno stabilimento produttivo e insomma come tale sottoposto alle regole del profitto. forse quello che è più interessante, intanto vi leggo anche dalla Repubblica, come dicevo è stata data notizia da tutti. La Repubblica dice: la nuova vita dell'ex Seves comprata da Leo France, dipendenti in sopralluogo. Un grande striscione accoglie l'ingresso dei proprietari nella fabbrica chiusa da anni che sarà ristrutturata. Ci vorranno, sì, questo non l'ho detto, ci sarà un grosso investimento, credo che più o meno, se non sbaglio nell'articolo, la notizia è con un investimento nel tempo, si parla di 4-5 anni, che potrebbe oscillare tra i 20 e i 30 milioni di euro. Leo France oggi conta 350 addetti, a circa 700 metri di distanza dall'ex Seves ha il proprio stabilimento, che è su via Sestese, perché insomma è un po' pratico di quella zona. Niente, questa è un po' la notizia, e c'è poi su Repubblica, segue sotto la notizia dell'acquisto, c'è un curioso, per certi versi anche interessante articolo che descrive le caratteristiche di questa famiglia e di questa azienda dal titolo "Una coppia low profile cresciuta con i più grandi", cioè sarebbe la coppia low profile, sarebbero Lorenzo e Franca Pinsauti al timone di un'impresa che fattura 100 milioni e lavorano per i brand internazionali della moda e sono collezionisti d'arte. Quindi insomma, questa poi segue un articolo che, come spesso avviene in questi casi, è un po' agiografico, come si dice, cioè tesse le lodi di questa famiglia di imprenditori che è riuscita a tenere all'interno del suo seno anche i propri figli, che si sono a loro volta realizzati nel lavoro dei genitori, che insomma, vengono descritti come persone che si sono, diciamo, fatte da sé venendo da la più totale gavetta, molto attenti alla loro impresa, e che viene in qualche modo agitata, insomma portata come esempio di grande azienda che funziona, all'interno della quale c'è un passaggio che ora non riesco a recuperare perché, a differenza di sempre, non ho sottolineato, ma insomma lo cito a memoria perché mi aveva colpito. È un'azienda che viene portata a esempio nell'articolo di Repubblica per il fatto che le discussioni al suo interno non hanno bisogno di sindacati, perché insomma si vive, come si suol dire in questi casi, dentro la grande famiglia, e quindi tutto funziona, tutto va abbastanza bene, c'è una grande passione che anima tutti, come se appunto Franca e Lorenzo, che hanno fondato questo loro impero, fossero nella stessa posizione di chi ci lavora da dipendente. Insomma, questo è un po' la favola che viene raccontata e che noi insomma la prendiamo con le dovute, direi, distanze. Questa insomma è un po' la notizia che ci tenevo a dare anche per l'aspetto così di vicinanza, non solo geografica, tra Radio Wombat e il quartiere di Castello, per via appunto del centro sociale autogestito Next Emerson, che di questa vicenda si è in qualche modo interessato nel tempo, prima ai tempi della dismissione della Seves, tentando, come ci fu possibile, di solidarizzare con gli operai che rischiavano il posto di lavoro e che poi l'hanno perso davvero, senza vanto, insomma i primi sussulti prima ancora che partisse il carrozzone sindacale furono fatte insieme tra noi del centro sociale e gli operai, i primi volantinaggi in piazza Dalmazia, le prime piccole iniziative che comunque ebbero se non altro il merito di cementare tra di sé un primo gruppo di operai che poi a sua volta ha avuto delle vicissitudini, perché come spesso succede le dismissioni non sono quasi mai tutte d'un botto, ma si comincia piano piano, quindi le prime procedure di mobilità, poi qualcuno venne reintegrato, qualcuno fu mandato all'estero a insegnare alle future maestranze, quelle che poi avrebbero sostituito i lavoratori italiani, e la vicenda insomma ha avuto questo excursus che non è particolarmente rilevante, perché non ha fatto storia, perché non ha vinto, ma è andata un po' come vanno le altre, però ha avuto il merito di durare nel tempo, di suscitare abbastanza attenzione, ha tentato più volte di coinvolgere il quartiere, e anche per questo insomma lo ridiciamo e ci fa piacere tutto sommato che, ripeto, non ci sia per ora, insomma non ci sarà una speculazione immobiliare edilizia, ma rimarrà uno stabilimento, per quanto appunto di una grande azienda che lavora nell'indotto della moda e del lusso. andiamo avanti con un'altra notizia che sempre mi era avanzata dalla scorsa settimana, perché è del 10 di settembre 2018, ma che credo sia importante dare perché si colloca all'interno di una di quelle, di quei terreni di scontro e di discussione che ovviamente sono molto molto forti in questo momento, un momento insomma che, come dicevo nella puntata precedente, dove ho tra virgolette tentato di ricostruire un po' la cornice dei dibattiti e delle notizie e degli avvenimenti che ci sono e ci saranno nel prossimo futuro, è una fase storica, momento di continua e permanente campagna elettorale anche per l'approssimarsi, soprattutto su Firenze, delle elezioni amministrative che coincideranno anche con quelle europee. Quindi la notizia riguarda le case popolari, il complesso delle case popolari della zona di Carlo del Prete. La notizia dice, la prendo da Repubblica, tutti a cena sulla frontiera multietnica. Nel cortile delle case popolari, dove abitano 400 persone, la pizza accanto al mahlabia, la soia e le salsicce. L'articolo poi continua un po', ve lo leggo un po', tanto per arrivare fino al punto che mi interessa. Prove di dialogo. La distesa di piatti sulla tavola in mezzo al cortile dice tutto. È un manifesto di intenti, un impegno, un sentiero più che una strada sicura. C'è la pasta alle vongole accanto al mahlabia, il budino marocchino, gli spaghetti di soia e il tiramisù, e poi crostate, pizze, popcorn, salsicce alla griglia e panzanelle. Ognuno porti qualcosa, era scritto sull'invito, e la generosità non è certo mancata alla cena popolare di via Carlo del Prete 45-47. È un tentativo per stare insieme, far socializzare le famiglie, dice l'assessora Sara Funaro. E allora via con le musiche in un sabato sera d'estate nel cortile di un agglomerato di case popolari a Firenze Nova, fra la coppa e il tribunale. Mica palazzoni, ma edifici a tre piani degli anni 20 del Novecento, 140 alloggi per un totale di circa 400 persone. La più giovane è un mese, la più anziana 97, via, si continua così, insomma, poi c'è qualche dichiarazione degli abitanti, qualche battuta, è un articolo insomma così un po' laconico, direi. E quello che mi interessava dirvi e farvi notare, l'abbiamo già detto, che era la presenza dell'assessoressa Sara Funaro e che chiaramente va a far dire di se stesso a quest'articolo che quello che è avvenuto nel complesso di case popolari di via Carlo del Prete è ovviamente di fatto un'iniziativa di propaganda elettorale che tenta in modo troppo nascosto di agitare o di muovere, insomma di impugnare la bandiera dell'antirazzismo, della multietnicità all'interno appunto di questo complesso di case popolari. A farlo è direttamente l'amministrazione comunale per conto dei suoi assessori, che ovviamente hanno in qualche modo organizzato, o forse più furbescamente fatto organizzare da qualche persona che in qualche modo si può considerare la base sociale, se ancora di questo si può parlare nei partiti diciamo moderni, e l'iniziativa era un'iniziativa di questo genere. Non è un caso neanche se di fatto poi una cena si trasforma in un grosso, perché aveva anche nel giornale, occupava un grosso spazio, in un grosso articolo di cronaca che permette appunto di far sapere che ci sono iniziative come questo. Lo dico perché chi si ricorda l'ultimo quindicennio di lotta per la casa, quello del complesso di case popolari di cui si parla di via Carlo del Prete, è un complesso di case popolari nel quale è avvenuto di tutto, nel quale si è assistito alla presenza anche a tentativi di radicamento, anche se poi non ce l'hanno avuto, però tentativi fatti di radicarsi da parte di organizzazioni della destra identitaria fiorentina, proprio facendo leva proprio sulle questioni della sicurezza. Eppure era un terreno che era stato aperto e, come sempre dico e devo necessariamente ribadire, dissodato fortemente dalle amministrazioni comunali che si sono succedute e proprio dal Partito Democratico. Dentro questo complesso di case popolari ci sono stati molti sgomberi, ci sono state delle vendite del patrimonio abitativo, e quindi questo aspetto social e e antirazzista che il Partito Democratico sta tentando di darsi, passando anche da iniziative come queste, lo dobbiamo assolutamente sconfessare. Credo che per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat non c'è niente di nuovo in quello che ho detto, neanche niente di cui stupirsi, ma insomma mi sembrava importante segnalarvi questo articolo. Che insomma in qualche modo per certi aspetti va di pari passo con questo del 19 settembre che prendo dal Corriere Fiorentino, che è quello su la regione vara il piano contro la povertà, aiuti per 50.000 famiglie. La regione vara un piano per sostenere persone e famiglie in difficoltà economica e contrastare i fenomeni di esclusione sociale, anticipando il reddito di cittadinanza del governo. Questo è, insomma, la notizia gira intorno a questo, non c'è poi molto se non statistiche di cui possiamo tranquillamente fare a meno in questa occasione sulla povertà in Toscana. Ci tengono ovviamente a farci sapere che il tentativo è quello di contrapporre anche attraverso il varo veloce e repentino del reddito di inclusione qualcosa che anticipi la possibilità che il governo giallo-verde vada veramente insomma imboccando la strada più volte dichiarata del reddito di cittadinanza. Ecco che anche la vicenda del reddito di cittadinanza contrapposto da parte della regione toscana al reddito di inclusione diventa un terreno di scontro a livello nazionale e non solo locale. Dice la Saccardi che l'assessoressa al welfare prevede in 3 anni uno stanziamento di 120 milioni di euro tra risorse europee, statali e regionali e rappresenta l'attuazione del reddito di inclusione. In Toscana sarebbero intorno alle 50.000 famiglie e poi bla bla bla. Ovviamente si arriva in fondo e mentre ancora aspettiamo dal governo il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione è realtà. Ora ci vuole veramente poco per sapere che in realtà lo dice la Saccardi, lo dice la regione, ma il reddito di inclusione quanto quello di cittadinanza tutto è tranne che una realtà. Vedremo come va a finire, se sono veramente solo dichiarazioni di intenti, solo propaganda elettorale come è probabile che sia, ma insomma questo è quanto. E diamo un'occhiata anche ad altro, guardiamo per esempio, assolutamente non è possibile non parlarne perché sicuramente tutti ne avrete sentito parlare, e questo articolo della Nazione ci fornisce direi un ottimo spunto per farlo, proprio perché sta nella filosofia con cui l'amministrazione e i poteri forti di questa città si sono rapportati a questo fenomeno. Sto parlando di Six Underground, la produzione di Netflix, che insomma è arrivata a Firenze da giugno e che ha girato delle scene insomma d'azione, quindi anche diciamo spettacolare, dall'alto contenuto spettacolare per tutto il centro storico fiorentino. Che dice la Nazione? Six Underground, scusate il disturbo, soldi a comuni, vigili e negozianti. A Palazzo Vecchio 500.000 euro, ai commercianti 500 euro a testa. Ve lo vado un po' a leggere perché l'articolo, ripeto, è interessante per fare qualche riflessione insieme. Altro che turismo mordi e fuggi, punto esclamativo. Poco sotto arrivano i numeri di ciò che la produzione cinematografica ha portato a Firenze in termini economici. In 4 mesi la troupe di quasi 500 persone è a Firenze da giugno, sono state prenotate 12.000 camere d'albergo. Sono 132 le persone assunte dalla produzione per il cast tecnico e altri 130 quelle che hanno trovato lavoro nei servizi complementari, dal trasporto alla vigilanza al controllo. Le 334 attività commerciali che sono state in qualche modo danneggiate perché costrette alla chiusura o diventate irraggiungibili per i clienti sono state indennizzate per la cifra record di circa 170.000 euro, con una media di 500 euro ciascuna. Infine, il prezzo pagato da Netflix al comune, 500.000 euro per l'occupazione del suolo pubblico che saranno destinati alla riqualificazione di Sant'Ambrogio. E della lista fanno parte altri 250.000 euro spesi nel noleggio transenne e in altri servizi accessori alla produzione, anche il pagamento delle ore di straordinario richieste ai vigili urbani. ancora un poco oltre, le grandi scene di azione in città, quindi specialmente sulla cupola del Duomo, moltiplicheranno la visibilità della città per miliardi di persone, tenendo presente che il Colossal di Netflix ha un target di utenti fra i 65 e i 55 anni. Questo fa parte del turismo culturale che lascia ricchezza sul territorio, anche se al prezzo di qualche disagio per i residenti. Questo più o meno è l'articolo, o meglio le parti che ho selezionato, utili a fare insieme qualche ragionamento, anche se tutto sommato abbastanza banale. Ragionamento qual è? Prima di tutto il Firenze, si parla sempre e continuamente di Firenze, no? Quindi Firenze come se le città fossero un unico, un indistinto, in cui come al solito, e torno a fare un ragionamento che ho fatto tante volte e che ormai spero sia penetrato nelle menti anche dei più duri tra noi, come se appunto in città fossimo tutti uguali e di quello che succede, dei soldi che girano, tutti avessimo gli stessi guadagni e le ricadute fossero uguali per tutti. Mettiamo che qualche posto di lavoro ovviamente arriva, come in ogni altra situazione che di questo genere, come in ogni evento cittadino che si rispetti, ma la redistribuzione, la distribuzione di questa ricchezza è assolutamente diseguale. Mi concentrerò giusto così per curiosità su quello che sarebbero i soldi arrivati a Firenze. Netflix ha speso per venire a Firenze e utilizzare in maniera praticamente totale, con disponibilità totale non solo di spazio ma anche di orario, giorno e notte compresa, circa 500.000 euro. Sembrano una cifra che messa così sia particolarmente rilevante, sembra particolarmente rilevante perché poi dice che verranno destinate alla riqualificazione di Sant'Ambrogio e anche qui mettiamoci dei dubbi, però ammesso che tutto questo sia vero, si parla di 500.000 euro che non sono oggettivamente una grande cifra. Non sono una grande cifra se pensiamo a quello che appunto Netflix ha potuto fare nel centro di Firenze. Io così per curiosità diciamo nei miei confronti e che ho fatto un po' per tutti, ho guardato dal sito del Comune di Firenze, che ha aperto una sezione, in una sua sezione un calcolatore, un simulatore di calcolo, quello che per esempio verrebbe speso da una persona che diciamo in via dei Cerretani al numero 18, perché ti chiede insomma di riempire dei campi obbligatori e quindi ho messo un numero civico a caso, una via del centro, per l'occupazione del suolo pubblico per diciamo 1000 metri quadri, che appunto non sono pochi, ma tutto sommato sarebbero una striscia di città di 100 metri di lunghezza per 10, quindi niente di paragonabile a tutto lo spazio di cui Netflix ha goduto e ha potuto usufruire nei giorni e nella permanenza che è stata a Firenze. Però insomma, io ho fatto questa piccola ricerca e il simulatore di calcolo mi ha tirato fuori la notevolissima cifra di 199.041,37 euro, quindi per prendermi come suolo pubblico al fine di edilizia di suolo pubblico 1000 metri quadri nel centro di Firenze in prossimità di via dei Cerretani 18, io comune cittadino spenderei 200.000 euro. Ecco, questo è per fare un raffronto che credo sia indicativo di quella che è, tutto sommato è la cifra alla quale la città è stata venduta. Si parla di vendita, o sarebbe forse più sensato parlare oggettivamente di svendita? E qualcuno potrebbe avanzare l'idea che in effetti questi soldi sono pochi e che questi eventi vanno bene, ma bisognerebbe che Firenze vendesse più cara la pelle. Credo che di fronte a un'opzione di questo genere si rovescerebbero completamente i termini della questione, cioè se la città di Firenze chiedesse molti più soldi di quelli che ha chiesto, cioè che sono 500.000 euro, e quindi si invertisse la relazione di forza e quindi a guadagnare fosse la città e non gli utilizzatori privati, in questo caso Netflix o domani chissà chi, a questo punto probabilmente credo che per come vanno le economie neoliberiste, di come vanno le cose in tempo di, si dice, di crisi globale, ma insomma queste sono poi anche le ricette con cui vorrebbero uscire, a quel punto con molta probabilità io penso che nessuna Netflix verrebbe in una città che vuole vendere più carapelle, proprio perché il rapporto che i giornali con articoli come questi continuano a volerci far percepire essere un rapporto onesto ed equo, che sta nei termini appunto onesti, nei quali la città prende dei soldi, tutti sono contenti, loro pagano e monetizzano tutto il disagio che producono, però insomma è un gioco nel quale tutti guadagnano. In realtà direi che continuiamo a insinuare il dubbio che non è così, non solo per la cifra che è risibile, come ho detto, i 500.000 euro paragonati per esempio a un'occupazione suolo pubblico che già costerebbe 200.000, e quindi si vede la grandissima sproporzione, ma poi c'è anche da dire, e credo questa è una cosa che appunto è un tema che in questa città in qualche modo deve essere ribadito e rimanere sempre aperto, è poi chi conta, cioè chi viene risarcito per i disagi. Dei disagi vengono risarciti monetizzando i commercianti, e questa è una cosa, gli esercenti, e questo è un fenomeno che ormai ricorre in modo sistematico e preoccupante, cioè sono stati dati circa 500 euro per le attività che hanno subito degli impedimenti, dei problemi, dei disagi in senso generale, ma agli abitanti non viene dato assolutamente nulla, e questo dico che è un meccanismo preoccupante, perché lo vediamo agire in maniera ricorrente e lo abbiamo visto esteso a tutta la città di Firenze nella vicenda della tranvia, cioè rispetto ai cantieri della linea 2 e della linea 3 che hanno causato sappiamo quanti disagi e quanti altri continueranno probabilmente a causarne, perché i lavori non sono affatto finiti. Il meccanismo con cui il Comune di Firenze ha imbonito settori consistenti della popolazione, che forse negli anni, nel tempo, avrebbero potuto rappresentare anche dei problemi per la prosecuzione dell'opera, è stato quello di elargire delle risorse economiche che ovviamente sono state elargite facendo, ne ha fatto le spese la fiscalità generale del Comune di Firenze, attraverso gli sconti sulla Tari. Gli sconti sulla Tari, che sono arrivati anche all'80% delle bollette, hanno creato di fatto un ammanco per 2 milioni e mezzo di euro, cioè a furia di sconti sono 2 milioni e mezzo di euro che non sono entrati nelle casse comunali, 2 milioni e mezzo di euro che in sostanza non sono stati dati, ma non sono stati riscossi, quindi è come averli dati, e quindi da una parte questi si sommano al costo totale di questa tranvia, di cui sappiamo già essere costata circa 7 volte le altre tranvie che sono state costruite in questi stessi anni in giro per l'Europa, e poi anche qui questi sconti e queste agevolazioni sulla Tari sono state fatte solo agli esercenti, pensando all'idea che la macchina non ha più la possibilità di fermarsi e quindi il commercio al dettaglio è stato danneggiato. Questa è un po' l'idea, che sicuramente è un fenomeno che è avvenuto, e in questo non c'è nessun accanimento da parte mia o da parte della nostra radio nei confronti del piccolo commercio, ma dall'altra parte tutti coloro che invece la città l'attraversano e la usano, me compreso, che in questi anni abbiamo sottratto un quarto d'ora in più, abbiamo messo in conto un quarto d'ora in più per un viaggio, un quarto d'ora in più per un altro, un quarto d'ora in più per un altro ancora, sia per recarci al lavoro ma anche per svolgere le nostre faccende quotidiano, qualunque altro spostamento, fossero anche per lucro o per attività ricreative o tempo libero, è questo come si risarcisce. E poi è possibile risarcire sempre tutto attraverso la monetizzazione? Noi siamo assolutamente convinti di no, e questa vicenda di Netflix ci porta continuamente a ribadire questo tema. E poi, credo anche questo lo ribadiamo, perché è una vicenda che abbiamo già raccontato anche da questi microfoni in questo stesso spazio della stampa rassegnata, che è legittimo anche mettere in discussione e in dubbio il fatto che i soldi vengano riscossi davvero, perché ai tempi del 200° compleanno dei Brooks Brothers, quando Nardella affittò il Salone dei 500 per la prima volta e per la prima sfilata di moda che si è tenuta al suo interno per la cifra di 98.000 euro. Questi 98.000 euro poi in realtà non stavano arrivando, e comunque la discussione in consiglio comunale sulle regole di ingaggio di questo affitto non era stata affatto chiara, i termini non erano stati affatto chiariti, i giorni di chiusura che erano stati annunciati per il museo e per la frequentazione del palazzo in realtà non erano stati rispettati, perché la cantierizzazione poi ha i suoi tempi, e quando si allestisce una mostra o come in questo caso una sfilata di moda, poi si può sbavare e sforare. Figuriamoci tutto quello che è successo con Netflix, e che evidentemente settori consistenti della nostra città si preparano a far succedere di nuovo. Insomma, siamo davvero convinti che ci abbiamo guadagnato noi, o piuttosto ci avrà guadagnato Netflix, che appunto come produzione come azienda che lavora e sa avvalersi del lavoro delle reti ha deciso per l'appunto di fare un film non con la computer grafica con cui avrebbero potuto ricostruire e fare scene ovunque, compreso il Duomo di Firenze, ma di farlo davvero. Non hanno investito forse sul fatto che venendo in estate da giugno a settembre a girare un film sarebbero stati ripresi continuamente dai mille milioni e milioni di smartphone che girano per il centro, e questo film in fondo è come se fosse già stato visto per quanto sta girando su internet. Quindi la nazione che ci dice che il Duomo di Firenze verrà moltiplicato in tantissime visioni e darà visibilità a Firenze, ma questa cosa, cioè il film darà visibilità a Firenze o è Firenze che sta dando visibilità e prestigio a questa produzione cinematografica? Credo che ci stiamo rispondendo da soli, ed è inutile insistere su questo tema sul quale abbiamo già detto tutto. A questo punto vorrei chiudere leggendo, e non si può farne a meno di leggere, questo articolo della Repubblica del 19 di settembre che parla di quello che è successo al Poderaccio, ancora una volta al centro delle cronache cittadine. L'articolo è veramente interessante e parla da solo, e non c'è bisogno di altro commento, vi lascerò dopo la lettura dell'articolo. Quindi vi saluto in anticipo ricordandovi che ci ascoltate il lunedì nella diretta delle 15.30, oppure il mercoledì alle 23.59, o il giovedì mattina presto alle 8.30, oppure attraverso i podcast. Sperando ancora che ci abbiate sentito dalle frequenze in onde medie dell'1359, e lunga vita al Wombat, un saluto a tutti, la prossima settimana. Il Poderaccio, Donzelli, Fratelli d'Italia, nella mini baraccopoli, ma i vigili lo avevano preceduto. Una decina di capanni con bombole del gas accanto ai giacigli. Palazzo Vecchio, interverremo come abbiamo già fatto a luglio. Articolo di Ernesto Ferrara. Sgomberati di qua, si sono reinsediati di là. Li avevano mandati via a luglio. Sulla ruspa era salito direttamente il sindaco Nardella, ma loro non si sono dati per vinti. 100 metri più avanti, i 15-20 romeni hanno ricostruito una decina di baracche. E ora ci vivono, sempre nel campo abusivo, a ridosso del villaggio rom del Poderaccio. Il castigatore, tra virgolette, della destra fiorentina, il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, se n'è accorto e ieri è andato a fare un sopralluogo, scoprendo una situazione terribile. Bombole del gas accanto ai giacigli improvvisati, elettrodomestici raccolti dai cassonetti, ferraglia e alimenti, sporcizia e vestiti. Quando Donzelli è arrivato, però, come fosse una spy story, ha già trovato qualcuno nei pressi del Poderaccio. I vigili urbani, inviati da Palazzo Vecchio, evidentemente informato in anticipo del sopralluogo, e anche tecnici di Publiacqua per un lavoro che comincerà a breve. Quando si dice marcare l'avversario, Firenze ha un'amministrazione comunale incapace di controllare il proprio territorio e far rispettare le regole finché non è obbligata, attacca Donzelli. Solo demagogia spicciola questa. Con l'intervento di Lullo abbiamo risolto la situazione di un accampamento abusivo come altre ne abbiamo risolte in questi anni. Con il nuovo accampamento siamo pronti a intervenire nuovamente, anche se si tratta di un'area privata, annuncia in risposta all'assessore alla sicurezza di Palazzo Vecchio, Federico Gianassi. Il deputato di Fratelli d'Italia è molto duro. Se queste persone vogliono rimanere a Firenze, trovino un lavoro, paghino le tasse e rispettino le regole, altrimenti devono essere considerate sgradite e mandate via dal territorio. Da giugno prossimo, dopo che avremo mandato a casa Nardella, tutto questo sarà realtà, insiste Donzelli, che ieri ha spiegato che Ginevra Cerrina Feroni è uno dei nomi intorno a cui sta lavorando il centrodestra come candidata del 2019. Le espulsioni sono competenza del Ministero degli Interni. Chieda a Salvini, ribatte Gianassi. Al netto della bagarre politica, la situazione intorno al campo rom del poderaccio è comunque pessima. Palazzo Vecchio, dopo la tragedia di Duccio Dini nei mesi scorsi, ha annunciato che lo stesso campo non sarà smantellato entro metà 2019. Prima però andrà risolto il tema delle baracche fuori legge. Se un italiano vivesse in queste condizioni, sarebbe arrestato un minuto dopo. Buona Donzelli. Il terreno sgomberato a luglio non è stato nuovamente occupato. È nata un'altra occupazione su un'altra area. Anche su questa l'amministrazione, come sempre, farà il possibile. Può forse dire Donzelli che dove governa la destra, a Pisa o a Pistoia, problemi simili non esistono? E comunque sbaglia a dire che da maggio 2019 ci penserà lui, perché a maggio del 2019 sarà nuovamente sconfitto e sarà all'opposizione, manda a dire il vice capogruppo PD in consiglio comunale, Francesca Paolieri. Ma io credo che l'articolo si commenti da solo, come vi ho detto, e ringraziamo davvero i Rom che permettono quantomeno a Forza Italia, Fratelli d'Italia, PD, Lega, 5 Stelle di fare le loro campagne elettorali sentendosi i paladini della giustizia. Ciao e alla prossima settimana.